Prova a riflettere un momento e a pensare a quello che sei. Così fantastico è il tuo corpo, meravigliosa è la mente che hai. Con cui puoi fare tutte quelle cose che ti piace fare, per cui ti rallegrerai. Puoi stare insieme ad altri e scoprire che la vita è piena di curiosità. Ci sarai, se ti impegni ce la fai.